Oggi il modernismo del novecentismo rinnovando tutto va. E le usanze antiche e semplici sono ricordi che spariscono. E tu Roma mia, senza nostalgia, segui la modernità. Hai la progressista, l'universalista, di chi ok allo, thank you, iaia. Vecchia Roma sotto la luna non canti più, gli stornelli, le serenate de gioventù. Il progresso t'ha fatta grande, ma sta città non è quella ando se viveva tant'anni fa. Più non vanno gli innamorati per lungo tevere, a rubasse li baci a mille sotto all'alberi. Ogni sfogliati all'ombra d'un cielo blu, so ricordi del tempo bello che non c'è più. Mo le ragazzette con le polacchette certo non le vedi più, l'abiti scollati portano contro luce trasparisse. Che no, senza complimenti nei caffè le senti de politica parla, vanno ogni comizio, chiedono il divorzio, mentre a casa si sta digiuna. Baci a mille sotto all'alberi, per i sogni sfogliati all'ombra d'un cielo blu. So ricordi del tempo bello che non c'è più.